L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta che non poteva non occuparsi di Ecomondo. C'è stata in settimana questa manifestazione, si è chiusa ieri, una manifestazione sempre molto interessante per conoscere chi opera nella green economy, per conoscere chi si sforza di realizzare la famosa economia circolare e per scoprire le soluzioni tecnologiche più avanzate, più sostenibili per la gestione e la valorizzazione dei rifiuti. A Ecomondo abbiamo avuto l'occasione di incontrare Massimo Centemero, che è il direttore del CIC, ovvero Consorzio Italiano Compostatori. Sappiamo che la raccolta differenziata dell'umido in Italia è stata praticamente una delle ultime a partire, ma i dati che sono stati presentati nel rapporto rifiuti 2015 di ISPRA sono davvero molto incoraggianti per questo settore e ce lo ha confermato Centemero. Sono talmente buoni che sono quasi imbarazzanti, nel senso che ISPRA ci ha presentato i dati 2014 e in Italia nel 2014 sono state raccolte 5.700.000 tonnellate di scarti organici, rifiuti organici, quindi da raccolta differenziata. E il rifiuto organico è il verde, la somma del verde e dell'umido, quindi che ogni cittadino separa appositamente. E questa sostanza organica, questo rifiuto organico va negli impianti di compostaggio, o meglio andava negli impianti di compostaggio, ci va tuttora, ma c'è una nuova evoluzione, stanno aumentando gli impianti di gestione anaerobica, quindi si va a produrre sia compost che biogas e addirittura la terza evoluzione, che è quella in atto proprio in questi giorni e sarà probabilmente una nuova frontiera, è quella di produrre del biometano. Quindi i nostri impianti trasformano lo scarto alimentare, trasformeranno lo scarto alimentare in compost e biometano, che probabilmente sarà utilizzato per l'autotrazione. Probabilmente, perché questa parte della filiera non è ancora organizzata, strutturata? La parte della filiera non è ancora strutturata, nel senso che gli impianti sono prontissimi, sono ai blocchi di partenza, mancano le normative tecniche, e cioè, per farla semplice, mancano gli standard tecnici per qualificare il biometano, perché lo dobbiamo mettere in rete, quindi metano che va nei nostri fornelli piuttosto che metano che va nei nostri serbatoi delle nostre auto a metano, e quindi manca questo tassello. Il governo aveva fatto la sua parte, perché nel 2013 ha pubblicato un decreto con l'elenco degli incentivi, quindi si sa esattamente quanto si può prendere facendo questa attività, però mancando le norme tecniche sono tutti un po' al palo. Le promesse sono che nei prossimi mesi si possa sbloccare questa situazione e i nostri impianti che riciclano rifiuti organici, ne abbiamo circa una quindicina che sono pronti per fare, come si dice, l'upgrading a biometano. Quindi le imprese sono pronte, diciamo, le scartoffie non ancora. Questo purtroppo, le scartoffie speriamo siano anche, stamattina ho seguito un convegno sui RAE e si diceva tante volte sono fin troppo precise, vanno così nel dettaglio che non si riesce più ad avere una norma distante che possa regolare tutte le situazioni. Immagino che il tema sia lo stesso anche per voi. Sia lo stesso, ma in Svezia lo fanno il biometano, in Germania lo fanno, quindi basterebbe, come dire, fare una sorta di copia e incolla di queste normative. Almeno per partire, dopodiché una normativa può sempre essere migliorata, evolversi, e può sempre essere dettagliata, migliorata, implementata, eccetera eccetera eccetera, quindi basterebbe davvero partire. Abbiamo dei tempi, delle previsioni su quando ci sarà una normativa? Qualche mese, nel senso che i miei impianti si aspettano che di partire con i primi impianti industriali per produzione di biometano a luglio del 2016. E per allora, se di questo passo, tra l'altro, la raccolta aumenterà, direi, perché molte hanno contribuito le grandi città, penso a Milano che finalmente si è data, ci ha dato dentro, insomma, ma via via aumenta anche il numero delle città italiane che fanno una raccolta dell'organico. Come la fanno, tra l'altro? Bene? Un po' sporchetta? Come vanno? Allora, molto interessante la domanda. Milano è la città più grande al mondo che fa raccolta differenziata dell'umido. dopo San Francisco, perché ha esteso la raccolta, Milano ha esteso la raccolta su tutta la popolazione al 2014, quindi 1.350.000 abitanti fanno la raccolta, fanno molto bene, diciamo che hanno una purezza, cioè la bontà della raccolta si misura nella purezza merceologica, e il 95% di quello che si raccoglie è umido di alta qualità e quindi idoneo per impianti di compostaggio, idoneo per impianti a biogas, a biometano, eccetera eccetera eccetera. Interessanti i dati presentati da ISPRA proprio ieri mattina, perché ci fanno vedere che Milano è stato, come dire, un'iniziativa molto curata, però abbiamo eccellenze, abbiamo Venezia fa il 53% di raccolte differenziate. Venezia urbanisticamente la conosciamo tutti, è molto difficile, c'è Macerata, quindi ci sono città anche, come dire, nuove e grosse città, la prima volta che vedo grosse città con percentuali di raccolte differenziate che superano il 50%, quindi questo è il dato per me eccezionale. Io dicevo, sempre detto, mancano le grosse città e il sud. Diciamo che le grosse città stanno arrivando, Milano lo dimostra, Venezia, manca il sud, manca ancora il sud. Purtroppo siamo, come dire, una torta cucinata a metà se manca il sud, perché davvero lì ci sono percentuali molto basse, Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise. Contrariamente per esempio alla Campania, che con tutto quello che è successo invece ha percentuali di raccolta differenziata nelle province di Salerno, Avellino, Benevento altissime, quindi molto simili a quelle del nord Italia. E quindi non possiamo augurarci però un'altra tragedia come quella di Napoli, che so io, in Calabria o in Sicilia, per poter dare una svolta alle cose, no? Direi che ci devono essere degli strumenti diversi. Assolutamente sì, la cosa che ha fatto nascere il sistema nel nord Italia è stata, come dire, andare di pari passo tra l'inizio delle raccolte differenziate e la costruzione degli impianti, quindi ci sono la mano destra e la mano sinistra che devono andare nella stessa direzione, e in Sicilia ho verificato che purtroppo non c'è né la raccolta e né gli impianti, quindi davvero lì ci deve essere un intervento molto serio. Cito un esempio interessantissimo a livello mondiale, perché lo stiamo anche esportando come modello, la Sardegna. La Sardegna ha introdotto un meccanismo di penalità premialità, quindi io penalizzo i comuni che non fanno la raccolta e con quella penalità vado a premiare i comuni che la fanno, quindi è un sistema a costo netto zero, però di fatto si è efficace, perché ci sono 12 impianti di compostaggio, una raccolta differenziata che si è stesa su praticamente su tutta la popolazione. C'è da dire una cosa che esce dai dati in generale sulla raccolta differenziata: quando tu organizzi la raccolta dell'umido bene, fa da traino anche a tutte le altre raccolte, e questa è una cosa molto interessante, perché ormai l'umido, la raccolta dell'organico, è diventato veramente il pilastro di tutta la raccolta differenziata in Italia. Ed era Massimo Centemero, ricordo, direttore del Consorzio Italiano Compostatori, il CIC. Restiamo a Ecomondo a questo punto, perché a Ecomondo è stata presentata ieri, venerdì, la SER 2015, ovvero la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Un'iniziativa che si avvale del sostegno della Commissione Europea, che nel 2015 si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e, per quel che riguarda l'Italia, con il contributo del Ministero dell'Ambiente, di CONAI e dei 6 consorzi di filiera che ben conosciamo, dal CIAL a Comieco. Ci facciamo presentare l'edizione 2015 della SER dai nostri amici di AICA, l'Associazione per la Comunicazione Ambientale, che sono parte del comitato promotore e che, come dice il loro nome, hanno la missione di comunicare. Sentiamo cosa ci ha detto Maurizio Bongiovanni. La SER è la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, quest'anno nel 2015 è arrivata alla 7ª edizione. Si svolgerà quest'anno in tutta Europa dal 21 al 29 novembre. Dico appunto in tutta Europa, perché la SER è una campagna, la principale campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini europei circa l'impatto della produzione di rifiuti e quindi sulla loro prevenzione. Chiunque può iscrivere una propria azione che poi svolgerà in quella settimana. Al momento Ci si può iscrivere come privato cittadino, si può iscrivere un'associazione, si possono iscrivere le scuole, si possono iscrivere le imprese, ma anche le pubbliche amministrazioni. Quindi ognuno di questi soggetti può proporre un'azione che va dai laboratori sul riciclo, dal riciclo creativo, oppure dei convegni, oppure banalmente la proiezione di filmati che raccontano un esempio di prevenzione dei rifiuti. Qualunque tipo di azione che va nell'ottica della prevenzione dei rifiuti può essere svolta in quella settimana. Ogni anno viene scelta una tematica che fa da filo conduttore alle azioni. Quest'anno la tematica scelta è quella della dematerializzazione, ovvero del fare di più con meno, cioè dare lo stesso servizio, la stessa funzionalità utilizzando meno beni in origine, in questo modo prevenendo la produzione di quello che potrebbe essere un rifiuto, diciamo così, oppure mettersi insieme nell'utilizzo di un bene per fornire un determinato servizio, o anche solo passare da un bene a un servizio, pensiamo alla digitalizzazione. Come faccio se decido come associazione, come privato, come comune, come ente di partecipare a questa settimana? Come faccio a far sapere la mia iniziativa? Beh, è semplicissimo. Per iscrivere la propria azione è sufficiente collegarsi a due siti. Uno è menorifiuti.org, oppure ci si può collegare al sito envi.info. Su questi siti si trovano tutte le informazioni per le modalità di iscrizione. Per quanto riguarda l'Italia, il Comitato Promotore Nazionale ha deciso di istituire un premio e quindi di premiare lo sforzo, la passione che le persone, le associazioni, eccetera, mettono in campo facendo queste azioni. Quindi già ci sarà poi un momento il prossimo anno organizzato proprio per dare un premio a queste azioni e in un certo modo. È un'azione anche di lungo periodo, non solo nella settimana. L'azione si svolge in quella settimana, ma in realtà poi con il premio si vuole anche ricordare l'azione che è stata svolta in quella settimana, e poi ci sono azioni che nascono in quella settimana ma continuano per tutto l'anno. Addirittura all'interno dello stesso progetto ci sarà poi viene organizzato un altro momento più avanti nell'anno. A maggio viene organizzato un evento di prevenzione e di pulizia dei rifiuti che si chiama Let's Clean Up Europe. Quindi in realtà il nostro sforzo è quello di cercare di coprire tutto l'anno con delle azioni di questo genere. Facciamo una pausa in questa intervista a Maurizio Bongiovanni, ci ritroviamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando della SER, la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Ci diceva Maurizio Bongiovanni di AICA, l'associazione per la comunicazione ambientale, che tutti, privati, aziende, enti, possono partecipare registrandosi sul sito della SER, che è un po' difficile da ricordare, quindi vi diamo due riferimenti italiani. Uno è il sito envi.info e l'altro è menorifiuti.org. Attraverso questi due siti arrivate sicuramente alla piattaforma europea e potrete registrare la vostra azione. Come è andata negli anni passati? Lo abbiamo chiesto allo stesso Maurizio Bongiovanni. Diciamo che abbiamo stimato, somministrando dei questionari ai proponenti delle azioni della edizione passata, abbiamo stimato che le azioni prodotte in quella settimana hanno evitato circa 6.000 tonnellate di rifiuti. Estendendo questo dato anche a tutti i proponenti che non ci hanno risposto direttamente con un questionario, possiamo arrivare a una stima di 113.000 tonnellate di rifiuti evitati. Ti ricordi per caso quante azioni l'anno scorso avevate registrato? In Italia 5.643 e 12.000 in tutta Europa. Quest'anno verso che cifre ci stiamo avviando? Per l'Italia almeno, l'Europa verrà dopo. Allora, al momento in Italia abbiamo registrato più di 5.000 azioni. È un dato indicativo perché le iscrizioni non si sono ancora chiuse e sono aperte fino al 12 novembre compreso. di queste azioni possiamo dire che alcune sono rappresentate da importanti proponenti, ad esempio Intesa San Paolo, che partecipa anche con le filiali di tutto il territorio nazionale, Simpli, il Mercatino, Leotron, che ha dei punti vendita per esempio Baby Bazaar, oppure azioni di Auchan. Di quelle azioni intraprese in passato, almeno per quel che riguarda le aziende dei servizi pubblici locali, molte sono diventate consuetudini, ci dice Valentina Cipriano, di Utilitalia, che è la federazione che riunisce le aziende dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas, e che trattano queste aziende i 2/3 dei rifiuti nazionali. Utilitalia è nel comitato promotore della SER, sentiamo cosa ci ha detto appunto Valentina Cipriano. Abbiamo visto insomma che il nostro impegno anche nei confronti delle nostre associate, che ricordo sono poi la gran parte delle aziende che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani sul territorio, quindi possiamo dire che noi serviamo il 65% dei cittadini italiani, raccogliendo 2/3 dei rifiuti urbani, raccogliendo e trattando 2/3 dei rifiuti urbani prodotti. Dicevo appunto che le nostre imprese, tramite appunto anche il nostro impegno a livello nazionale in questa campagna, abbiamo visto che negli anni hanno cominciato sia ad aderire con proprie iniziative che partecipare ad iniziative promosse dagli enti locali, quindi in particolare dai comuni, dalle province, dalle regioni, e quindi diventando anche sui territori promotori di questa fase molto importante e prioritaria della gestione dei rifiuti. Posso citare interventi di prevenzione che vanno dal riutilizzo di beni usati, perché ovviamente ridurre rifiuti vuol dire intervenire a monte e quindi riparare o riutilizzare beni che hanno ancora diciamo una vita e quindi ritardare la loro entrata nel ciclo dei rifiuti è sicuramente una iniziativa insomma encomiabile dal punto di vista ambientale ed anche sociale. Quindi ci sono imprese che si sono aziende che si dedicano a questo particolare settore, no? Recupero per poi rimettere sul mercato prima che diventi rifiuto? Sì, lei in questo diciamo sta facendo riferimento proprio a quello che definiamo lotta allo spreco alimentare, cioè tutte quelle iniziative volte in particolare diciamo rivolte agli alimenti, che non sono scaduti ma magari sono in scadenza, oppure i pasti non consumati nelle mense, quindi grande distribuzione organizzata, supermercati o anche mense pubbliche, per esempio penso alle mense scolastiche, sono alimenti che appunto possono essere riutilizzati. Le nostre aziende di solito sono coinvolte nella fase della logistica, perché si tratta appunto di recuperare tra l'altro in breve tempo questi alimenti e devolverli ai meno abbienti. Certo, senta, questo tipo di iniziative che nascono magari nella settimana della SER hanno poi avuto una continuità o sono rimaste delle esperienze limitate a quel periodo? No, assolutamente, si tratta ormai di esperienze molto, diciamo, molto consolidate, presenti sul territorio tutto l'anno. La SER è soltanto una vetrina, una settimana all'anno in cui chi ha fatto bene e chi sta facendo bene diciamo lo mostra al pubblico, ma ormai diciamo sono pratiche consolidate, perché nella gestione dei rifiuti sappiamo che l'intervento a monte sicuramente è foriero di minori costi e diciamo e minori problemi a livello di gestione, quindi ormai questo diciamo è un concetto che è passato. È un concetto che voi cercate a questo punto di far passare sul pubblico, perché poi è lì l'ultimo anello della catena. Esatto, ha detto benissimo, perché il cittadino è l'ultimo ma anche il primo anello della catena, perché diciamo è il cittadino che comprendendo la problematica si responsabilizza e quindi già a livello di consumi interviene cercando di produrre di meno, quindi comprando merce non imballata per esempio, o merce per esempio alimenti dalla filiera corta, o bevendo semplicemente l'acqua del rubinetto, per dirne una diciamo molto facile. Certo, quindi sono tutte azioni quotidiane che vanno però, come si dice, pubblicizzate, ecco, nel senso deve diventare di pubblico dominio. Giustissimo, infatti la campagna europea della settimana della riduzione dei rifiuti è proprio, diciamo, proprio questo diciamo, di particolare, che è una campagna che si rivolge a tutti i soggetti interessati da questo problema, che praticamente sono tutti gli attori economici e non della nostra società, quindi a partire dai cittadini. Anche i cittadini sono responsabilizzati e ricevono stimoli e input molto utili da questa campagna. Utilitalia ha debuttato quest'anno a Ecomondo perché, come abbiamo avuto modo di dire in altre puntate, è nata nel 2015 dalla fusione di Federutility e Federambiente. Ha debuttato alla grande Ecomondo anche perché quella è l'unica fiera nazionale in cui trovano spazio tutti i settori gestiti dalle sue imprese. Abbiamo raggiunto il vicepresidente di Utilitalia, Filippo Brandolini. L'impressione che vogliamo dare è un po', come dire, il senso del progetto che noi non senza fatica abbiamo voluto praticare in questo ultimo anno, ovvero evidenziare che i servizi pubblici locali, e in questo senso intendiamo in particolare l'energia, il ciclo idrico, la gestione dei rifiuti, sono servizi che sono fondamentali per la tutela dell'ambiente, un uso efficiente e razionale delle risorse, ma sono anche un'opportunità, un'occasione di sviluppo economico e sociale per il Paese. E in questo senso abbiamo anche interpretato molte delle nostre presenze nei dibattiti, nei convegni, nelle tavole rotonde, e abbiamo avuto un'importante occasione di confronto con tanti soggetti che abitualmente prima non erano nostri interlocutori, proprio per cercare di declinare i principi, nel caso dei rifiuti per esempio, dell'economia circolare. Quindi Ecomondo è stata un'occasione importante, perché siamo nati pochi mesi fa, ma però siamo nati forti di una tradizione che era quella di Federambiente e di Federutility, ma che poi è la tradizione delle aziende ex municipalizzate che si sentono e sono rappresentate da queste associazioni, tradizione che ha radici profonde nel tempo e nei territori del nostro paese. Senta, una curiosità, Ecomondo è per farsi conoscere ma anche per conoscere, guardandosi intorno ha visto qualche novità che le è piaciuta? Domanda è quanto mai pertinente, e noi anche prima di Utilitalia in questo caso abbiamo spesso utilizzato l'occasione di Ecomondo per capire che cosa succede altrove. Mi piace sottolineare che da 9 anni organizziamo un momento di confronto sulle esperienze di gestione, in particolare la raccolta differenziata, ma non solo. Da 2 anni a questa parte lo facciamo coinvolgendo realtà estere. E anche quest'anno l'occasione è stata molto, molto importante. Ci sono, come dire, occasioni importanti per i nostri tecnici di vedere le evoluzioni tecnologiche di mezzi, attrezzature, strumentazioni per lo svolgimento dei servizi. Devo dire che quest'anno, diciamo, il valore aggiunto è dato dal fatto che la riflessione sull'economia circolare ci ha aperto a un confronto con mondi con i quali generalmente non ci siamo incontrati. Sicuramente, sì, prego. Del mondo dell'agricoltura, dei produttori di energie rinnovabili, sebbene noi siamo produttori di energie anche rinnovabili, e soprattutto partendo dal cambio di paradigma che sottosta al tema dell'economia circolare, ovvero ci dobbiamo porre il tema di gestire rifiuti per recuperarli, quindi produrre delle materie prime e seconde, dei prodotti che devono essere reimmessi in un mercato. Questo vi dà anche delle nuove responsabilità, oltre, no? Ci assegna delle nuove responsabilità, dei nuovi compiti e delle nuove sfide. Però Utilitalia, come dire, è nata anche per riuscire a rafforzare quell'approccio industriale alla gestione dei servizi, perché, come hanno detto tanti autorevoli relatori, non lo diciamo solo noi, l'economia circolare si potrà realizzare se c'è un sistema industriale che le dà forza, le dà ali, la fa decollare. Grazie a tutti i nostri ospiti, l'ultimo Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 24 e vi do appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un saluto.